Iniziarlo. Aspetto un attimo che le persone si siedano. Sentite bene? Sì, sono avvisato. No, va bene, c'è l'orologio, sì. Va bene. Io non so che effetto ha fatto su di voi questo spettacolo, io mi ha colpito, anche perché tanto sono amico di Elena e quindi sono di parte. E mi commuove sempre pensare, mi tocca proprio pensare che oggi ci siano delle persone che si dedicano al teatro. Che è un'attività notoriamente non redditizia, cioè che parte da una passione. E questo fa sperare appunto che ci siano persone che non sono preda del demone che attraversa questa nostra epoca, che è il profitto, il denaro. E credo che quando parliamo di Olocausto sappiamo tutti che l'umanità lì ha toccato l'abisso, questo è noto. Altrettanto noto che noi stiamo di nuovo raggiungendo un abisso, è un abisso altrettanto terribile perché il pianeta sta collassando ed è qualcosa da cui non scapperemo facilmente. Questa volta o impariamo la lezione o forse le cose non si rimettono più in piedi, quindi la situazione è molto drammatica. Che cosa possiamo imparare dall'Olocausto? Quando si tocca l'abisso, beh, per un principio che Jung chiamava appunto enantiotromia, ma già ne parlava Eraclito, quando abbiamo tirato troppo la corda da un lato, a un certo punto c'è la tensione che porta verso l'altra parte. Il problema è che se continuiamo a fare così e così, continueremo a finirci negli abissi. Cosa possiamo imparare? Impariamo che l'abisso che andiamo a toccare, o che abbiamo toccato, dipende da uno stato di coscienza dal quale non riusciamo veramente a venire fuori come umanità. Io dico in tre parole quello che semplicemente penso come uomo della strada, poco più, anche se un po' di esperienza ce l'ho, un'esperienza clinica, un'esperienza come musicista, anche esperienza. Beh, da quello che mi sono fatto l'idea oggi e del gruppo a cui appartengo, che sono contento di appartenere, perché noi viviamo, come dire, una piccola comunità di studio. L'idea che ci siamo fatti è che dentro l'essere umano, come è noto, esistono forze completamente diverse, coabitano. In termini di Panikkar abbiamo da una parte il potere e dall'altra l'amore, in termini di Panikkar. E lì sono due forze contrapposte. Che cos'è il potere? La volontà di potenza. La volontà di appropriazione, la volontà di prevaricazione, da cui nasce poi quello che il Cardinale Martini riteneva, poi in fondo lui dice che peccato umano, che è la prevaricazione dell'uomo sull'uomo, e penso di poter aggiungere dell'uomo sulla natura, sugli animali, su tutti gli esseri possibili. Ecco, quando un essere così intelligente, dotato di 10 miliardi di neuroni, si riduce a produrre cose di questo tipo, ci si chiede ma dov'è l'intelligenza? Dove è finita? Ecco, quindi un abuso di un'intelligenza, perché poi comunque l'essere umano una parte di intelligenza gli rimane. Per costruire degli aerei, per costruire delle bombe bisogna essere piuttosto intelligenti. Allora c'è da chiedersi, ma dove va a finire questa intelligenza che nella tecnica materiale riusciamo a mostrare così bene? Oggi siamo riusciti a spedire una navicella su Plutone. Fino a un po' di tempo fa non manco sapevamo che esistesse, oggi c'è una navicella che ci è arrivata. Ma qui l'intelligenza è straordinaria. Ma possiamo dire che l'intelligenza che sta alla base della tecnologia di oggi, la usiamo nello stesso modo anche per sviluppare un'etica, una capacità empatica, perché il tema è questo. Vedete, così, proprio parlando a braccio, nel mondo della natura possiamo dire che c'è violenza, perché un leone quando attacca una preda, ma io credo che una persona sana di mente, sì, dispiace un po' della preda, ma non ci vede una violenza, perché? Perché il leone è così, perché c'è la preda che è così, non ci sarebbe la gazzella senza il leone, il leone senza la gazzella. I due esseri viventi sono coevoluti e quindi il leone è guidato dagli istinti. Gli istinti sono i mezzi attraverso cui la natura fa conoscere la sua esperienza ai nuovi esseri viventi, e questa esperienza si fonda su milioni e milioni di anni, dall'inizio 5 miliardi di anni insomma. Ma nell'essere umano invece le cose stanno diverse. Noi possiamo sviluppare una tecnologia che è infinitamente potente, ma non avere nel contempo uno sviluppo empatico altrettanto grande, perché il leone se lo può permettere di non avere sviluppo empatico. In fondo, se incontra un bambino per la strada, se lo mangia. Ma il leone non va al di là di quello che è l'istinto della natura, invece l'essere umano sì, può creare un campo di sterminio, può portare, oggi in modo meno visibile, ma ci sono milioni di persone che muoiono ancora oggi di fame e di stenti. E non mica casualmente, in conseguenza della volontà di potenza e di appropriazione che gli esseri umani hanno. Allora, forse il tema è l'intelligenza al servizio della tecnica e della volontà di, quindi della volontà di potenza, produce determinate cose, ma la stessa intelligenza può, al servizio dell'empatia e quindi dell'etica, potrebbe sviluppare un mondo completamente diverso. Allora, la sfida che mi sembra di poter cogliere da filmati, da esperienze come queste e da anche altre esperienze che possiamo avere nella vita, anche le peggiori, è come possiamo passare dal mondo così com'è, con questa divaricazione tra tecnologia e forza da una parte, empatia piuttosto limitata dall'altra, in un mondo in cui l'empatia è altrettanto grande dei mezzi tecnici di cui disponiamo. E questo qui. E quindi oggi che tipo di empatia avremo bisogno? Beh, come ci dice un bel libro di Rifkin che si chiama Civiltà dell'empatia, ci dice, beh, oggi è indispensabile un salto nel livello di coscienza, per cui non basta avere empatia per i propri figli, un po' per la propria famiglia, un po' per gli amici, un po', ma la nostra empatia deve allargarsi al punto da comprendere l'intera biosfera. Perché oggi abbiamo raggiunto un tale livello tecnico da poter distruggere la stessa terra in cui abitiamo. Quindi soltanto una misura in cui proprio ci diventerà un nuovo istinto, cioè appreso, ma che funziona come un istinto senza doverci pensare, che non produrremo più cose che non siano contrarie al progresso delle relazioni armoniche. E dico due parole su cosa intendo per relazioni armoniche. Beh, appunto, possiamo vedere che nella nostra vita, ma nella vita di tutti i giorni, lo vediamo, proprio. Ci sono momenti nelle quali ci sentiamo in sintonia con chi è intorno a noi, ci sentiamo in sintonia con ciò che facciamo, siamo nel flusso, non stiamo pensando all'immagine che vogliamo ottenere sugli altri, siamo totalmente assorbiti da ciò che facciamo. Ecco, in quel momento lì di solito non produciamo danni intorno a noi, e se abbiamo una conversazione con qualcuno, siamo molto attenti a comprendere il suo punto di vista. Comprenderlo, che vuol dire prenderlo insieme, prenderlo dentro, che vuol dire non escluderlo. Ebbene, se noi assistiamo a molti dibattiti televisivi, noi vediamo che questa capacità non c'è. Cioè, vedevo l'altro giorno, avrei voluto portarlo, meno male che non l'ho fatto, visto che mi si è fulminato il computer stamattina, quindi sarebbe stato un lavoro del tutto inutile. Volevo registrare 5 minuti da Omnibus, una trasmissione che c'è su Rai 7, sulla 7 al mattino, in cui si vedevano persone colte, persone che, intellettuali, politologi, persone che hanno dedicato la loro vita allo studio, conversare tra loro in una maniera così aggressiva, così è così ottusa. Ognuno escludeva gli altri. Ma allora la domanda è, qui c'è la domanda che poi piacerebbe se potessimo affrontare dal punto di vista filosofico. Ma si può immaginare che un insieme di note stonate, di brutti suoni, possa produrre una bella sinfonia? Se qualcuno pensa così, allora siamo sulla buona strada. Ma se invece pensiamo che una buona sinfonia deve essere fatta da buoni strumenti, un buon teatro, di buoni musicisti, una buona capacità musicale, e non può essere fatta da un insieme di cattivi suoni che improvvisamente generano un bel tessuto sonoro e una bella organizzazione. E beh, però questo mito sembra esserci, perché continuiamo ad assistere a simili battaglie e in qualche modo vuol dire che qualcuno crede che servano. Oppure è tutta una farsa? Questo c'è da chiederselo. Allora, la domanda che mi ponevo questa mattina, proprio riflettendo oggi pomeriggio, dicevo, oggi siamo tutti consapevoli che venendo a questo mondo, vivendo qui, abbiamo una certa impronta ecologica, si dice oggi, no? Pare che noi europei la nostra impronta pesi una sessantina di tonnellate all'anno, tra rifiuti, materie prime distrutte, cioè parecchio. E queste vi. È per molte persone visibile oggi. La domanda è altrettanto visibile l'impronta, non so se puoi dire così, l'impronta etica che lasciamo sul mondo ogni momento? Cioè, nelle nostre conversazioni, quando siamo accoglienti, aperti, pacifici, inclusivi, è molto diverso da quando siamo diffidenti, contrari, in ostacolo all'altro, cioè quando facciamo delle nostre conversazioni una guerra. Molte conversazioni di guerra alla lunga si fondano su un pensiero di guerra che alla lunga poi prende spazio nella materia, spende spazio poi nelle armi. E così, a occhio, così mi viene in mente una distinzione che fa Foucault tra società che hanno privilegiato l'armonia e società che hanno privilegiato l'efficienza. Sono tutte e due società dotate di uomini intelligenti, ma chi privilegia l'armonia mette la sua intelligenza a sviluppare relazioni armoniche. Anche lì c'è una tecnica, non è che non c'è la tecnica, cioè, comunque c'è il linguaggio. Il modo di usare il linguaggio, il modo di generare relazioni armoniche è una tecnica, non è una cosa che viene distintiva. Altre società hanno privilegiato l'efficienza, quindi la forza e quindi anche le armi. In fondo, se nel mondo prevale la nostra civiltà, non è perché è più intelligente, ma perché è stata più forte. E quando Colombo è andato in America, non è stato rimandato a casa, perché le nostre armi sono più forti, insomma, voglio dire, anche la nostra astuzia e la capacità di istruzione. Ci sarebbe da riflettere molto su quello che è successo nel periodo della cosiddetta scoperta dell'America, di come la nostra cosiddetta civiltà ha incontrato le cosiddette primitivi dell'America. Sarebbe utile, penso nelle scuole, che si leggesse tutti la storia del popolo americano, molti miti se ne andrebbero, perché ancora oggi è un momento di grandi miti, e su questi miti non possiamo fondare una civiltà, credo. Abbiamo bisogno di ritornare a quell'invito che facevano i primi filosofi, la ricerca della verità. Al di là delle opinioni, insomma, la ricerca di ciò che è veramente profondamente vero per tutti noi. Questo io passo la parola all'illustre professore. Sì, vediamo se anche la si funziona, mi pare. Ma io vorrei riflettere accanto a queste cose che ha detto Scarpovelli, che mi trovano del tutto d'accordo, sono temi molto importanti che ha sollevato. Vorrei riflettere però proprio sulla occasione che ci riunisce qui, cioè la questione della memoria, il giorno della memoria. Che cos'è questa memoria? Anche perché, nonostante la buona volontà, come si dice, no? E il ripetersi di queste celebrazioni della memoria da moltissimi anni, in maniera difficilmente comprensibile, no? E però, come tutte le cose, bisognosa di una spiegazione, nonostante la evidenza che queste giornate della memoria, e non solo loro, naturalmente, offrono a tutti di ragionare su queste cose che sono successe, di osservare, no? Di vedere reperti, fatti. E nonostante tutto ciò siamo tutti consapevoli che una parte, sia pure piccola, sia pure marginale, forse, ostinatamente e pervicacemente, non la pensa come noi. E bisognerebbe darci una ragione. Non è così semplice, no? Qual è la spiegazione? Io me lo chiedo e naturalmente non ho la presunzione di avere una risposta, ma certamente mi sembra una domanda inquietante. Io ho un amico carissimo che oggi non mi ha accompagnato qui, di solito mi accompagna quando vado a fare cose in giro, perché insomma lui ce l'ha con gli ebrei. È un amico carissimo, intelligentissimo, pieno di cultura, appunto tu parlavi della cultura, eh? E io ho l'impressione che la questione della cultura c'entra sino a un certo punto, no? Immaginare insomma che tutta la persecuzione contro gli ebrei sia stata perpetrata da persone di poca cultura, non è vero, non è affatto così. Ma poi la persecuzione contro gli ebrei naturalmente ha toccato un picco incredibile, intollerabile, 6 milioni di morti, poi la sistematica, no? Razionale, perversa, previdenza nello sterminio. Ecco, questo forse non si era visto mai, si erano viste certamente i pogrom ci sono sempre stati, ma magari accadevano in momenti di sommossa popolare, di emozione, di grandi eventi trascinatori, preparati spesso, preparati da una propaganda dai pulpiti, signori, dai pulpiti, da dove si parlava della legge dell'amore. Ecco, se volete ricordare, allora ricordiamo. Allora ricordiamo bene. Io ricordo un giorno in cui ero a Lisbona, che non avevo mai visitato, mi sono trovato in una piazza, in questa piccola piazza molto graziosa. C'era un cippo e c'era una scritta dove si diceva: qui nel 1485 sono stati ammazzati 600 ebrei da una popolazione inferocita, sobillata dalle autorità religiose. Ecco, quando si parla di memoria, perché sapete, la memoria è un atto dovuto di celebrazione, no? di rispetto, di riguardo verso i morti, è come il giorno dei morti, tutto vero, ma quando si parla di memoria, sai, loro sono ormai nella custodia della morte, loro sono in pace, non gli può più succedere niente. E quindi la questione della memoria non sono loro, loro sono l'occasione, ma la questione della memoria siamo noi. Quello è un momento, come dire, eccezionalmente importante, eccezionalmente significativo, attraverso il quale è come se sorgesse idealmente un grande specchio nel quale ci possiamo guardare. Non possiamo guardare. Ci possiamo guardare, perché se questo noi non lo facciamo, la giornata della memoria diventa semplicemente, come dire, un'occasione retorica e i nostri giovani sbadigliano, perché sono stufi di vedere le solite fotografie, le solite cerimonie, le solite... Anche nella memoria le cose si consumano, no? La loro ripetizione, la loro iterazione le rende poco significative. Certo, è vero, ho avuto l'esperienza dei miei studenti che sono andati ad Auschwitz e sono tornati sconvolti, e certo, perché lì, quando si va lì, insomma, è un po' difficile non avere un impatto, no? Però sono pochi quelli che vanno ad Auschwitz, non possiamo obbligare tutti ad andare ad Auschwitz. E se obbligassimo tutti ad andare ad Auschwitz sarebbe una gran barba per tutti andare ad Auschwitz, perché questa è una realtà, no? Il corrodere, il frantumarsi della memoria. E allora invece l'occasione secondo me è eccezionalmente importante per ricordare noi stessi, non gli altri, per ricordare alcune verità profonde, senza condannare nessuno naturalmente, non si tratta di questo, si tratta di una discesa nel profondo della propria storia e del proprio essere, in quanto essere comune a tutti, no? Per cui tutti siamo in qualche modo coinvolti e nessuno è ovviamente lui stesso responsabile, no? È responsabile nella misura in cui appartiene a tutti e tutti appartengono a lui, però in qualche misura anche ha occasione di riflettere su questa compartecipazione. E allora è giusto ricordare che gli ebrei non sono stati massacrati solo dai gerarchi nazisti e che ancora adesso ci sono in giro persone che li vorrebbero molto, come dire, decisamente abolire, eliminare, ben inteso, non mi sto riferendo ad Israele, quelle sono altre questioni sulle quali non voglio neanche lontanamente entrare perché non è la giornata giusta per queste cose, non è la giornata giusta, anche se certamente lì ci sono dei problemi grossi, che sono innanzitutto loro, che sono innanzitutto degli ebrei stessi, no? E lo sappiamo, e lo sanno, eccetera. Ma se noi ci guardiamo indietro nella storia, il nazismo è stato il culmine di una intolleranza violenta che è cresciuta nei secoli, che si è alimentata con il mito, parlava giustamente Scarovelli di mito, no? Con il mito del popolo deicida. Il popolo dei Cile, e con una propaganda durata secoli. Nello spettacolo che abbiamo visto Testere, in questa rievocazione molto efficace e suggestiva, c'è a un certo punto un passaggio molto importante, poi con tutti quei figli, no? Che sono un bel gioco di scena, un passaggio nel quale si rievoca la propaganda per la fede. La propaganda per la... Bene, e si dice lì una cosa che secondo me è importantissima, vedete, la memoria, la vera memoria, non la memoria addomesticata per farsi il pensierino come dire, della sera, no, la memoria autentica. Lì è cominciato, ecco, non so se si possa davvero dire lì, ma insomma certamente è un grande episodio di molti secoli fa, non di l'altro ieri, è cominciata la propaganda nel senso moderno della manipolazione del pensiero delle masse. Non è nata, come dire, dai cattivi, è nata dai buoni, se possiamo dire così, no? Buoni e cattivi. È nata con le migliori intenzioni. Ah, questo è un punto delicatissimo, capite? Io ricordo in un congresso in Germania di molti anni fa, poi si andò tutti a tavola, come succede, si andò a cena, e io avevo accanto una filosofa, una professoressa di filosofia tedesca, molto simpatica, molto intelligente, che tra le altre cose mi disse: sa, il dramma del nazismo è che nella maggior parte dei casi i capi del nazismo, a loro modo, erano in buona fede. Agghiacciante. Certo, la buona fede di Goebbels, bisogna capire bene chi è Goebbels, no? Conoscere il personaggio, conoscere... Ma per quel poco che io ho avuto modo di leggere, di studiare, sì, è vero, aveva ragione la mia collega tedesca, no? Inorridita da quel che diceva, ma anche con una domanda, no? E Goebbels era convinto che il Reich di Hitler fosse il bene e che lui faceva il bene e che quando perseguitò Richard Strauss dicendogli la sua musica è finita, adesso ci vuole la musica delle masse, cioè le canzoncine che piacevano anche a Hitler, anche se Hitler era poi personalmente amante della musica classica, Goebbels molto meno. E lui era convinto di tracciare il solco, come si diceva da noi, no? E di andare verso un futuro meraviglioso dell'umanità. Purtroppo c'erano dei nemici e bisognava farli fuori. Ma è sempre andata così. Vogliamo ricordarci che è sempre andata così. Noi inorridiamo, giustamente credo, quando pensiamo che la ragione per cui viene sterminata una quantità di persone è la loro appartenenza a una razza, cosa molto recente nell'evoluzione dell'uomo e assolutamente ininfluente per definire la natura umana in generale. Oggi questo ormai la scienza lo ha dimostrato, anche se ci sono sempre alcuni che dicono che non è vero, che dubitano anche delle più evidenti prove scientifiche. Sì, è vero, questo è successo, ma tanto per dirne una. Se voi prendete la guerra del Peloponneso di Tucidide e vi leggete i drammaticissimi, terribili capitoli nei quali la potente Atene, la città della filosofia, della democrazia, di Pericle, della civiltà più alta che forse l'Occidente abbia mai conosciuto, dei poeti, dei tragici, bene, la grande potente Atene distrugge la città di Melo, che è una piccola città, sospettata di essere filospartana, durante la guerra del Peloponneso, appunto. C'è un dialogo terribile tra i maggiorenti dei Meli e i maggiorenti degli Ateniesi, dove i maggiorenti degli Ateniesi dicono: c'è una legge di natura che non abbiamo inventato noi, e questa legge di natura stabilisce che chi è più forte vince e chi è più debole si deve inchinare. E i Meli si riuniscono, gli ambasciatori ateniesi concedono loro una breve pausa per prendere una decisione, alla fine quelli tornano e dicono: noi preferiamo, siamo consapevoli di essere più deboli, ma preferiamo combattere e morire per la nostra libertà. Forse speravano che intervenissero anche gli Spartani, che non trovarono conveniente in quel momento nella strategia della guerra di impegnare. E quindi i Meli rimasero da soli di fronte agli Ateniesi, ma non è questo che vi volevo raccontare, è la conclusione. La conclusione fu che ovviamente gli Ateniesi vinsero. E cosa fecero? I nobili ateniesi, dai quali noi ripetiamo le nostre origini. E non era affatto una cosa eccezionale. Diciamo pure che era normale, la normalità che aveva in testa anche Goebbels. Passarono per le armi tutti gli uomini, tutti i ragazzini intorno sino ai 12-13 anni, i più piccoli, maschi e femmine, e tutte le donne, li resero schiavi. Questo è l'essere umano. Quindi certo non c'è paragone, i Meli non erano 6 milioni di ebrei, ma la miccia è quella, no? La questione è quella. Allora a questo punto ci sono alcune domande, no, che sorgono, che sono domande inquietanti. Ma erano dei degenerati gli Ateniesi, quindi, o tutti i popoli antichi, perché questa era la norma, eh? Quando due città venivano in conflitto, quelli là, non tanto perché erano ebrei o non ebrei, ma perché erano i cittadini di quella città, e venivano sterminati, perché era l'unico modo per garantirsi che non si sarebbero vendicati, perché era il modo normale di fare politica. Noi abbiamo sistemi molto più raffinati, per la devastazione e la distruzione di massa, come ovvio, non soltanto le armi, non soltanto le armi. Abbiamo sistemi di completa, come dire, appunto, completa acquisizione delle teste, delle menti. Noi diventiamo padroni dell'animo degli altri, perché gli spieghiamo che la nostra economia è la migliore del mondo, tutte le cose che ho toccato. La nostra economia è quella che si fa per il bene di tutti, per carità, chissà perché ci sono tanti che muoiono di fame, ma è perché ancora non si sono convinti, no? bisogna vivere come abbiamo detto noi. Sterminarli sarebbe troppo dispendioso, poi un po' fastidioso, poi creerebbe sicuramente malumore, no? E soprattutto è molto più utile trasformarli in consumatori, finché la va, perché siamo tutti consumatori, non la va più, evidentemente, no? Non ci sono i soldi per comprare, ce ne stiamo accorgendo. Ma allora, erano degenerati gli ateniesi, erano degenerati gli antichi, era degenerata la Chiesa Cattolica nei secoli bui, erano degenerati i tedeschi, i nazisti. È facile, vero, rispondere di sì. È più difficile, appunto, ricordare. Ricordare, come hanno detto grandi menti che hanno riflettuto sull'orrore, la tragedia degli ebrei nell'ultimo conflitto, è più difficile ricordare che la maggior parte delle persone che hanno partecipato allo sterminio, tranne ovviamente molte eccezioni che conosciamo, erano normali. Erano come noi, come si dice, no? Erano come noi. Si alzavano al mattino e andavano al mattatoio. Era il loro lavoro. Lo eseguivano con scrupolo. Avevano intorno la propaganda che diceva che questo era il bene, perché quelli portavano la lepra. Una delle tragedie della persecuzione ebraica da parte del nazismo era la convinzione che fosse un fatto di sangue. Quando si obiettava ai nazisti, ma voi addirittura sterminate anche i bambini ebrei, e diceva, sì, che per forza, perché noi mica ce l'abbiamo con i bambini, anzi, ci inteneriscono i bambini, però purtroppo è come se voi avete un male terribile che si diffonde nella popolazione, che cosa volete fare? Bisogna per forza sopprimerli, perché di fatto c'era questa visione che era apocalittica, no? Ma che aveva convinto molte persone. C'erano libri, giornali, riviste che diffondevano questa visione contro gli ebrei. Ma voi pensate che non ci siano anche oggi? Voi pensate che sia innocente quello che comprate all'edicola? Voi pensate che non ci siano dei mascalzoni che si sono fatti il loro giornale per i loro interessi? E che naturalmente diffondono nelle teste delle persone che cosa devono fare le persone, mica hanno un giornale personale ognuno, no? Devono pur sapere cosa è successo nel mondo, no? È facile, no? È facile diffondere i miti, come diceva, no? I miti. È difficilissimo arrivare a capire come stanno davvero le cose, forse è persino ingenuo pensare che le cose stiano in un modo solo. Stanno in tanti modi, è difficile, molto difficile, e poi mica abbiamo il tempo di farlo, non solo non abbiamo gli strumenti, dobbiamo fidarci degli strumenti che ci sono. Immaginatevi di essere un cittadino tedesco del 1928, dal 28 al 35, che tra l'altro vivevano nella fame perché avevano perso la prima guerra mondiale, avevano l'inflazione che ogni giorno, avete visto quei francobolli, 3 miliardi, 2 milioni, non un francobollo, per me la moneta non valeva più niente. Ecco, se voi eravate un bravo uomo, una brava donna, un cittadino qualsiasi, nei primi anni 30, ma non mi è mai venuto in mente, a me è venuto in mente tante volte, mi viene in mente, che io avrei potuto essere uno di quelli che andavano alle manifestazioni e che gridavano meglio. E perché mai non io no? Certo io adesso no, figuriamoci. Adesso no, adesso è facile, anche se altri invece ancora pensano che andava bene così. Ma figuriamoci allora, cosa potevo sapere? Cosa potevo capire? Sapevo che ero un poveraccio, che avevo perso la guerra, ce l'avevo con tutta l'Europa che ci aveva affamato. Finalmente c'era un tizio che sembrava parlare in nostro favore, che sembrava ridarci un onore, una dignità, che ci prometteva le promesse, viviamo in un momento di promesse, naturalmente, fanno parte del gioco democratico, le promesse. Io non so cosa avrei fatto. Proprio lo dico sinceramente, non lo so. Non lo so, se io mi retrocedo allora, no? Io sono stato un figlio della lupa, tra l'altro, dato la mia età. Quindi alla domenica, il sabato, non mi ricordo più se era il sabato o domenica, facevo le marcette vestito come un imbecille, come M di Mussolini qua su. C'è ancora le fotografie, un mio amico che fa il regista in Germania, un italiano, mio compagno di studi, me le ha chieste perché facevo uno spettacolo in cui parlava del fascismo appunto negli anni 30 e lui stesso che recitava si è vestito come ero vestito io a 8 anni, diciamo così. Ecco, se non fosse intervenuta la guerra a distruggere l'Italia, a distruggere quindi la nostra passione politica mussoliniana, ma io non lo so come sarei stato a 18 anni, a 16 anni. Io vorrei che tutti si facessero questa domanda, che tutti pensassero, io potevo essere un tedesco che andava alle adunate e che era contento che venissero bruciate le sinagoghe, che vennero tutte bruciate. In un grande pogrom, nella indifferenza dei più, nell'invidia e gelosia di molti, e gli ebrei sono ricchi, eccetera, e nella adesione sincera, e chissà che radici hanno, bisogna andare da un psicanalista per capire che radici hanno questi sentimenti, ma sono diffusissimi, allora il giorno della memoria è questo, il giorno della memoria è la domanda. Di che cosa sfrutta i peggiori istinti, le peggiori passioni, gli errori più clamorosi che ognuno di noi può incarnare, chi sfrutta tutto questo attraverso forme di propaganda o fanatica, o interessata, o semplicemente violenta e desiderosa del potere, come diceva, no? Passione che talvolta sembra più forte dell'amore. Sembra, perché se non fosse così saremmo già morti tutti, per fortuna c'è anche l'amore. Ecco, allora il giorno della memoria è l'occasione per ricordare non tanto coloro che sono stati le vittime, quelli sono in salvo, come dicevo prima, e questo è molto consolante da pensare, no? La morte, in fondo, è una nostra amica, no? Alla fin fine è la nostra migliore amica, anche perché non fa distinzioni. Ma è l'occasione per pensare, non dico che noi potevamo essere quelli, no, questo è troppo, ma è l'occasione per pensare che in quel tempo potremmo anche noi non aver capito, avere involontariamente, diciamo, involontariamente supportato il male che cresceva, il male che distruggeva quanto di buono. È andata per aria l'Europa, eh? È finita l'Europa. Con quelle due guerre mondiali noi abbiamo distrutto 2500 anni di civiltà, perché adesso dell'Europa non è più nulla, eh? Se non forse quest'ultima occasione della memoria, perché forse noi europei siamo ancora, come dire, i più adatti e i più coraggiosi a ricordare e a confessare. Grazie. Hai espresso in modo veramente armonico, come sai fare tu, l'idea che volevo dire io, esattamente, è proprio, concordo totalmente, il giorno della memoria ha un senso se facciamo questo, cioè se diciamo, ma io se fossi stato al loro posto, con le stesse condizioni, sarei finito così. E credo che se ragioniamo in questo modo, che a mio avviso è l'unico sano, succede allora qualcosa, perché cosa vuol dire ragionare in questo modo? Che noi non giudichiamo i nazisti, non giudichiamo gli ebrei, non giudichiamo i fascisti, non giudichiamo gli stalinisti. Questo non significa che allora aderiamo al loro pensiero, ma non giudichiamo nel senso, possiamo intendere due modi di giudizio. C'è un giudizio che è imprescindibile, vuol dire discernere, è chiaro che è importante che discerna tra un nazista e uno che non lo è, tra una brava persona e una che è un farabutto, quello è discernere. Il giudicare, come lo intendo in questo momento, e come forse ci possiamo accordare a intenderlo convenzionalmente, intendiamo come giudizio quando c'è dietro la malevolenza, cioè si dice tu sei diverso da come sono io, tu sei un farabutto, io no. Ecco, allora penso che oggi potremmo riflettere che la matrice forse di tutti i mali sta proprio qui, quando c'è il giudizio, perché se c'è, è proprio stato il giudizio che ha consentito in fondo ai tedeschi comunque di dire vabbè, ma gli ebrei sono fatti così, sono proprio una pessima specie, ce li dobbiamo togliere. E c'era anche malevolenza, non c'era solo, se fosse stata benevolenza avrebbero trovato qualche altro sistema per tenerli al sicuro. Quindi intendo per giudizio la malevolenza che dipende dal fatto che noi non comprendiamo il mondo dell'altro, non lo includiamo, lo facciamo completamente diverso dal nostro, quindi distinguiamo tra quelli che sono buoni, categoria alla quale apparteniamo, e quelli che sono cattivi, categoria dalla quale ci teniamo ben distanti. Ora, questa separazione così netta non è un atto di intelligenza, è un atto di grande ottusità. Ecco, quando Carlo tu dicevi che non sono certo stati solo i nazisti con gli ebrei, certo, ma e non solo con gli ebrei, ci sono state, pensate solo all'eccidio dei catari, un giorno 225 catari bruciati vivi, Innocenzo IV, d'accordo col re di Francia, ha detto ma questi qui sono un vero pericolo per la vigna del Signore, sono una volpe nella vigna del Signore, non l'ha mica fatto per cattiveria, credevano davvero così. Ora, per credere a questo vuol dire essere propensi al giudicare buoni da una parte, cattivi dall'altra, quindi vuol dire utilizzare uno stile di pensiero molto rozzo, tutto sommato. Quindi un tipo di pensiero che se fosse della stessa rozzezza nel mondo della tecnica meccanica non avremmo raggiunto il livello delle ruote, useremmo ancora le slitte. Quindi, ritorno al tema di prima, nella tecnologia ci permettiamo di essere intelligenti e facciamo cose straordinarie. Nell'ambito dell'etica siamo ancora rozzi e lo vediamo nella... Io mi sono occupato ancora adesso, mi occupo anche di psicoterapia, di formazione. Quando io ascolto i racconti delle persone che vivono in famiglia, le cose che si dicono, le cose che dicono i figli, ma lì c'è una rozzezza di pensiero, cioè è come se per certe cose l'essere umano non fosse intelligente, è ottuso. È ottuso selettivamente, perché invece in altre cose lo è intelligente, a voglia se lo è. Ecco, quindi è come se ci fosse questo gap, in certe situazioni abbiamo chiuso il nostro osservatorio di intelligenza. Margherita Porete, che è una mistica, nel 1310 mi sembra più o meno è stata arsa viva, ha scritto un bel libro che si chiama Lo specchio delle anime semplici, lì parla dei due occhi dell'anima, dice gli occhi dell'anima sono due, intelletto e amore, e quindi per avere amore ci vuole intelletto, cioè bisogna capire, perché se io non capisco niente di te non posso dire che ti amo, solo se ti comprendo tu puoi sentirti visto, riconosciuto e amato, altrimenti io non amo te, amo l'idea che mi sono fatto di te, ma è un'altra cosa. Cioè, adesso parlo di Dario che è seduto in prima fila, io dico, io voglio bene a Dario, ma o l'ho compreso, oppure voglio idea alla mia idea che ho di Dario. E se poi un giorno scopro che questa idea non corrisponde a lui, l'amore finisce subito, che è quello che succede spesso nella vita degli uomini. Allora, questa tematica, cosa vuol dire comprendere un altro essere umano, entrare nel suo mondo? Cioè sviluppare la stessa intelligenza che mettiamo nel studiare le stelle, lo spazio, la fisica, la chimica. Siamo intelligenti, per confronto degli altri esseri umani siamo rimasti molto ottusi. Io faccio parte dell'ordine dei psicologi, ma non ne sono per niente fiero, io non me ne riconosco un granché, dovessi dire. Io ho sentito molte volte psicologi che non mi sembra a volte che dicano cose così interessanti sugli esseri umani. Forse io vengo da altri mondi, forse voglio cose diverse, io parto dalla musica, per cui ci arrivo per sbaglio al mondo della psicologia, quindi lo vedo da outsider e quindi come tale vedo cose diverse. Ma mi sembra che oggi credo che almeno se per sentirmi appartenente a questo mondo della psicologia io dovrei sentire che da parte di questo mondo si fa qualcosa per chiarire le idee un po' di più, cioè non fare solo una terapia delle persone, ma una terapia delle idee, perché molte delle idee che circolano nella nostra testa sono tossiche, sono dannose. Raramente io ho sentito parlare del giudizio in modo chiaro, come per esempio fa Thich Nhat Hanh, come fa il Dalai Lama, come in certi contesti, no, in Oriente, per esempio, il giudizio, la filosofia orientale, la psicologia orientale è stato esplorato benissimo. Qui da noi, mica tanto. Ecco, però io ho notato che se continuiamo a praticare il giudizio, la nevrosi non se ne va. Poi la nevrosi, grosso modo, può assumere due forme, ma sto parlando per grossissimi modi. Quella più depressiva, per cui mi do la colpa a me, oppure quella narcisista, per cui colpevolizzo sempre gli altri, do la responsabilità agli altri, o me ne do troppa a me o troppa agli altri. Ma questo non porta a nulla, perché quando mi do troppa responsabilità a me, in realtà mi sto giudicando, mi sto sottoponendo un giudizio crudele e spietato su di me. Oppure l'alternativa è fare un giudizio crudele e spietato nei confronti degli altri. Non mi sembra granché come alternativa. Da questa alternativa si esce se si è compreso davvero cos'è il giudizio, che il giudizio è veramente una forma tossica che fa sì che il nostro pensiero intelligente in certi settori diventi veramente ottuso. Questo è un tema che mi incuriosisce da molto tempo e nel nostro gruppo di lavoro, poi ci stiamo lavorando, appunto, lavorando da tanto tempo, ormai da anni, e recentemente ho scoperto una persona che ha avuto un'esperienza molto particolare, era una persona con una grande sofferenza psichica, una persona che era stata ricoverata in una clinica, in una stanza dove nessuno poteva andare, tanto era violenta, quindi era piuttosto isolata. Un giorno questa persona si sveglia, e vede il mondo completamente diverso, non si sa cosa gli era successo. Ci sono dei casi che sono così. Questa persona di cui vi parlo è Byron Katie, potete trovare su internet, è una persona mai nota. Un altro era Eckhart Tolle, è uscito da una situazione di depressione terribile. Un giorno si risveglia e vede il mondo completamente diverso. Ma non perché diventate befrenico, cioè stupido, e si mette a ridere di tutto, no, è perché ha visto che si può osservare il mondo da un punto di vista molto diverso da quello ordinario, in cui la cosa che fa la differenza è che di lì non si giudica più. Cioè vedi il nazista, vedi il fascista, vedi la persona prepotente, ma capisci come in fondo hanno sempre capito le persone molto intelligenti, penso Spinoza, il quale dice chiaramente, ma gli esseri umani hanno libero arbitrio. Spinoza dice, ma quale libero arbitrio? Ma li vedi cosa fanno? Libero arbitrio quelli lì. Dice Spinoza, se noi prendessimo un sasso e lo lanciassimo per aria, improvvisamente il sasso li prendesse consapevolezza, direbbe, ho deciso di volare, ma mica il sasso che vola, l'abbiamo lanciato noi. E dice, lo stesso per gli esseri umani, agiscono spinte da forze che non conoscono. Quindi libero arbitrio non c'è. Poi Spinoza dice, momento, questo è un certo livello, ma se l'essere umano sviluppa la capacità di auto-osservarsi, senza giudicarsi, vedendo che lui è meccanico, nel momento che si osserva mentre è meccanico, beh, in quel momento lì acquista un grado di libertà che prima non aveva. Adesso senza entrare nei dettagli Spinoza, perché lo conosco proprio appena, estremamente in modo superficiale, ma entrando nel pensiero per esempio di Byron Katie, che poi è il pensiero a un certo punto di vista concorda con quello buddista, con quello taoistico, dice, noi produciamo la sofferenza nel mondo attraverso il giudizio. La sua terapia, sapete cosa consiste in questo? Chiede alla persona di fare un elenco, cosa che possiamo fare tutti, tornando a casa, facciamo un elenco di pensieri giudicanti nei confronti degli altri. Facciamo un elenco, 10 pensieri giudicanti. Questa persona non doveva fare così, il governo non doveva fare questo, quelli lì non dovrebbero fare quello. E poi facciamo un elenco di pensieri giudicanti nei confronti di noi stessi. E poi Lei chiede alla persona di farsi una domanda che direi interessante per un filosofo. Adesso tu stai dicendo che quella persona veramente è un disonesto, che non dovrebbe essere così. Allora poniti questa semplicissima domanda. È vero? La persona dice, certo che è vero, mi ha truffato. Okay. Sei assolutamente sicuro che quella persona è disonesta e la verità è questa? Cioè, sì, è così. La terza domanda è, mentre tu pensi questo, come ti senti? Dice, male, c'ho una rabbia dentro. Ok, bene. Come saresti tu senza questo pensiero? Sono stato lì. Beh, se non avessi questo pensiero, starei bene, non avrei questo tormento. Okay. E da lì poi inizia il lavoro vero e proprio, in cui dice, tu hai detto che l'altro è un disonesto. Sì. Dice, rigira un po' la frase. Cosa vuol dire? Cambia il soggetto, trasforma il verbo. Per esempio puoi dire, io sono disonesto. Questa, trova delle ragioni per cui questo è vero. E chi è che è in grado di dire non ce n'è manco una? Quindi fa tutto un lavoro sul pensiero molto semplice, che però invita a scoprire che attraverso il giudizio noi creiamo una separazione tra noi e gli altri, e che questa operazione tra noi e noi stessi, e che questa operazione è veramente foriera di nevrosi e di cattiveria, cioè diventi captivus. Viene vuol dire prigioniero, cattiveria viene da prigionia, diventiamo prigionieri dei nostri sentimenti, cattivi sentimenti. Invito a fare questo perché credo che la giornata sulla memoria, cogliendo l'invito di Carlo, è una riflessione su noi stessi. Sono morte tante persone, penso in Italia a tutti i partigiani che hanno combattuto per la Costituzione. Diceva Calamandrei qualche anno dopo, sono morte tante persone, hanno dato il sangue per mettere al mondo la Costituzione e i principi fondamentali su essi si fonda, che sono straordinari. Dopo alcuni anni gli italiani si erano già dimenticati. Si occupavano di cosa? E lì viene fuori questa bella immagine. Era nata l'Italia delle vongole. Cioè l'interesse era andare a mangiarsi una pizza oppure a mangiarsi un piatto di vongole. I grandi ideali della Resistenza, ciao. E in questo modo che cosa è successo? Che il fascismo imperante ovunque, in senso ampio, cioè la prevaricazione dell'uomo sull'uomo, ha ripreso tranquillamente l'effetto. Quindi ecco l'importanza della memoria, ricordare che ognuno di noi in ogni momento può diventare vittima di quello stile di pensiero terribile, dello stile oppressivo e giudicante, alla quale possiamo, credo, attribuire una notevole importanza agli eventi drammatici come quello dell'Olocausto e altri di questo tipo. Non ho capito bene. Ma sì, se io ho capito, certo, era un appello al fatto che di fronte alla violenza nazista c'era stata una resistenza, anche se era difficilissima in Germania, però c'era stata, come c'è stata anche in Italia, anche in Italia ci sono stati i partigiani. Sì, e naturalmente adesso io non vorrei essere frainteso, ma se si fa il gioco della memoria bisogna essere coraggiosi. Cosa sarebbe successo? E cosa penseremmo noi, posto che fossimo vivi? Se le armi atomiche di von Braun, che sono state impedite dai bombardamenti degli alleati, ma che erano molto prossime a essere realizzate, le famose armi segrete, come si diceva allora, se fossero state costruite in tempo, e invece che essere gettate sugli giapponesi, fossero state gettate sugli inglesi, e noi oggi vivessimo in un cosmo nazista, penseremmo tutti che il bene è quello lì, almeno temo, vorrei sperare di no. Insomma, l'impero romano ha commesso i più gravi crimini della storia dell'umanità, mica solo l'impero romano, anche tutti i vari imperi cinesi, indiani, però ha vinto, e siccome aveva anche costruito delle grandi cose, strade, leggi, tolleranza religiosa. Noi siamo tutti quanti lì a insegnare ai ragazzini che la civiltà romana, i fascisti esageravano un po', la grande, no? Grande tradizione romana, hanno vinto. E se vincevano i cartaginesi? Ora, certo, io sono consapevole che è grottesco questo argomento, se poi pensiamo a Hitler, se noi pensiamo a Göring, se noi pensiamo agli orrori del nazismo, è chiaro che lì c'era un errore profondo, e che quindi era giusto ribellarsi, che quindi era molto probabile che non ce l'avrebbero fatta, perché alla fine insomma il bene trionfa, come si dice, no? Però attenzione a non farne una cosa retorica. E una domanda. Ecco, io avevo, per esempio, ero alla scuola media allora, gli ultimissimi mesi di guerra a Milano, c'era una situazione tremenda. Un mio compagno di scuola, che era più grande di noi perché più volte ripetente, credo avesse tra i 14 e i 15 anni, si arruolò nelle milizie fasciste. Un giorno ce lo vedemmo arrivare a scuola col basco e diciamo, ma sei scemo, sta finendo la guerra, avevano già perso tutto. Che cosa l'aveva spinto? L'amore della divisa, il fatto che era un cretino compiuto, la sua famiglia. Io poi non ne ho saputo più niente di questo poveraccio, che era il mio compagno di classe anche, ero in molta simpatia con lui. Spesso mi veniva pomeriggio, facevamo i compiti insieme, mia mamma gli dava un po' di marmellata finta, perché loro c'erano su del pane finto. Ecco, uno si chiede, questo qui come è diventato un giovane fascista? Poi poteva essere preso, messo di fronte al palo e fucilato. E facciamo il ragionamento al contrario. Quanti partigiani sono state nobili figure alle quali noi dobbiamo la nostra attuale libertà? Questo non va mai dimenticato. Vittime sparate in giro per le città. E quanti erano semplicemente dei facinorosi, degli illusi, della gente violenta?